Sono le 7 e una manciata di secondi. Ciao ciao, questa si chiama Rock FM, il nome della stazione radiofonica, con sede in via Locatelli 1, 20124, Milano. Ed è per l'appunto da una Milano ancora nella penombra. Sì, ce la posso fare. Da una Milano ancora governata dai lampioni crepuscolari accesi, che c'è l'Ariele in compagnia di Spadino, pronto per condurre magistralmente questa 127esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Il saluto ai due più fedeli, Rosy e Andrea. Grazie ragazzi, sono in squadra con voi. Pane, burro e rock and roll. Tracu, tracu, traralla. La tua colazione roll. La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Vi tiriamo per le orecchie fino alle 9 del mattino. Restate con noi, non troverete di meglio. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Solito carnaio di stupidate all'interno di questa trasmissione radiofonica che, come annunciato, proseguirà la sua diretta fino alle 9 del mattino, a meno che non succeda niente, e come sempre tocco Mister Trombetta, può servire visto che è fatto di ferro. Lunedì 12 di novembre, una giornata particolare per parecchi motivi, andremo a scoprirli nel corso della diretta, del tempo della diretta a nostra disposizione. Sicuramente un lunedì 12 di novembre dove usciranno i famosi dati Audiradio, quindi io ve lo svelo da subito, visto che ultimamente è almeno un centinaio di puntate che abbiamo dichiarato guerra a tutte le altre emittenti radiofoniche. Adesso non dico che i dati di oggi, metto già le mani un po' avanti, capito? Non dico che proprio siamo il programma più ascoltato di tutti, però insomma, passo in passetta, sarebbe carino, che un inizio così di dato positivo potrebbe aiutarci, ecco. Quindi scopriremo, non credo lo scopriremo entro le 9 del mattino, perché non arriveranno così presto i dati, spero di poterli vedere già per domani. Intanto vi dico, voi tutti concentratevi e pensate: pane, burro, rock and roll, pane, burro, rock and roll, pane, burro, rock and roll, sia mai che porti bene, no? Tanta la buona musica che ascolteremo. Andremo a disturbare qualcuno dei nostri radioascoltatori o delle nostre radioascoltatrici, insomma, ce n'è robaccia da fare, restate con noi. Time. che inizio moderno quest'oggi. The Bitter End, Placebo. Che ti è successo, Spadino? Sta botta di modernità all'alba del 12 di novembre? È buona, dai. Molto bene. Vi ricordo, tra qualche istante sta già salendo l'ascensore del palazzo di Rock FM, il nostro rocker di riferimento, quindi attaccheremo anche quest'oggi con Roberto Fricantoni. Sì, proprio lui. L'almanacco del giorno che fu, per scoprire perché vivere più intensamente il 12 di novembre rispetto ad un altro giorno qualsiasi. Vi ricordo anche le nostre coordinate, anche se come al solito scopro sempre con molto piacere che ho dei radioascoltatori con del gran fosforo nel loro cervello, perché ve lo ricordate già, ma per tutti gli altri, per gli amici passivi, tra virgolette, senza offesa, che non ci hanno mai scritto perché un po' vergognetti. Non vergognatevi, siamo tutti nella stessa barca. Non chiedetevi cosa PBR può fare per voi, ma cosa voi potete fare per PBR. E per PBR si intenda l'acronimo della nostra trasmissione, Pane, Burro e Rock and Roll. Che inizio, ragazzi, sono proprio in forma. Un numero di SMS, 335-100-7777. Oppure una casella di posta elettronica, ariel@radiorockfm.com. Citavo la frase... L'omino che corre! Eccolo là! Speriamo che torna indietro. Era parecchio che non ci occupavamo più di lui, Scusate, è un uomo che corre a quest'ora del mattino fuori dalla mia finestra. Ci tengo sempre a salutarlo un po', che ci sentiamo vicini. Un 12 novembre particolare, guarda che tenero, Sbadino, questa l'hai messa per me, di la verità, sì, la canzone più bella del mondo, che ovviamente è stata scritta dai Beatles. Gustiamocela insieme, senti qua che roba. Today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Eccolo, ecco cosa mancava alla puntata di quest'oggi. Roberto Friccantoni, la ciliegina sulla torta di pane, burro e rock and roll. Grazie per la ciliegina. Prego. Io ultimamente preferisco la marena. La marena. E la così marena. Sia, la marena sulla vostra colazione direttamente da Bologna. Buongiorno. Buongiorno a voi. E insieme alla marena ecco qua la panna. Ovvero l'almanacco del giorno che fu. Lunedì 12 novembre. Cosa accadde? Lunedì 12 novembre, ce lo dica, ce lo dica, ce lo dica. Ci trasferiamo a 74 anni fa. Era il lontano 1933 quando un certo Hugh Gray, perfetta pronuncia, impeccabile, scatta la prima fotografia del presunto mostro di Loch Ness. Lei, Friccantoni, nel 33 dov'era? Ero a Loch Ness, per l'appunto mi aggiravo nei paraggi e facevo una nuotatina nel lago di Loch Ness. Ma pensate, radioascoltatori e radioascoltatrici, non si gasi troppo. Sì. Che tutta questa grandissima, posso dire, menata. La dica, si può dire menata. Questa grandissima menata del mostro di Loch Ness compie 74 anni. Beh, sì. Sono 74 anni che ci rifilano questa storia di Loch Ness. Vedo che non le piace molto, e allora passerei alla seconda, che invece le piacerà. Era il 12 novembre del 65, quando i Velvet Underground fanno il loro debutto dal vivo alla Summit High School di New Jersey. E sa quanto furono pagati? Loro? Sì. No, non lo so. Lei lo sa? $75, lo so perché sto leggendo per l'appunto. Fossi andato avanti l'avrei letto anch'io. Un cachet da signori, lei è mai stato pagato $75? No, e mi rincresce parecchio. Andiamo invece con una brutta notizia datata 12 novembre del 1970, l'ultimo concerto dei Doors con Jim Morrison a New Orleans. Quanto mi sarebbe piaciuto esserci. Lei non ha mai visto Jim Morrison dal vivo? No, e la cosa filosoficamente mi ha nuociuto. Lei si sente un po' Jim Morrison? Io sento molto Jim Morrison da molti punti di vista. Lo sento vicino. Sento che Jim era vicino a tutti noi. È un suo punto di riferimento fisicamente parlando? Beh, devo dire che più che fisicamente, spiritualmente parlando, musicalmente parlando, teologicamente parlando. Lo sente vicino. Grazie, maestro. È stato un piacere. Buona giornata a tutti, per Bacco! Everybody knows my name. God Knows Why. Solo Dio sa perché. Kid Rock con qualche chilo di vocoder ci ha interpretato questa struggente ballata che ci ha portato alle 7:22 del mattino di un altro fottuto lunedì da passare insieme, almeno fino alle 9. Un vero piacere potervi svegliare quotidianamente oppure accompagnarvi a letto, perché c'è anche chi a quest'ora termina la sua dura giornata lavorativa. Certo è per questo amico che scrive: buongiorno, vi ascolto dalle 6 alle 8, poi me ne vado a letto. Siete dei grandi. Mentre scrivo i miei diari, vorrei sentire un brano degli Audioslave e vorrei dedicarla al mio tesò, che sta già dormendo mentre io svariono con i pensieri. Ciao Speed Sick, perdonami la richiesta, non l'accontenteremo perché siamo provincialotti, sì, ma quello ancora non lo facciamo. A meno che ci inventeremo una rubrica prima o poi, per le richieste. Andrebbe fatto, Freak. Fa molto radio fare una rubrica con le richieste. Ci penseremo. Intanto qualche saluto via SMS. Siete tanti oggi. Che è successo? Un lunedì che vi sveglia prima? Meglio, meglio. Salutiamo il Fa. Alle 7, Damned Monday. Dopo una settimana di mutua, è un fine di festa e rabbia. Andiamo avanti, Fa. Tanti si è beccata una settimana di mutua, quindi guarda. J110, che ci augura il buongiorno, ci fa sapere che stasera andrà in quel di Varese a gustarsi il concerto dei Deep Purple. Chiede se ci sarò anch'io, mannaggia Jay, sai che non cioè, qualche dozzina di volte ci ho pensato. Però non è detto che io riesca a vedermi Deep Purple, anche se effettivamente l'evento di Purple a Varese volevo non perdermelo, così per puro campanilismo. ciao Angelica, grazie mille per il messaggio. Un saluto anche a Mario. Porca vacca, io scrive così, non sono io che leggo. Porca vacca, vi ascolterei volentieri se non perdessi il segnale. Io parto da Cogoleto, Genova, e vado alla Spezia. Ci sarà qualche buco in mezzo, Mario, resisti. Oppure riascoltati poi la puntata grazie alle magie di internet. Orgoglio di padre, un altro SMS, c'è anche una mail su questo argomento molto carina che vi leggo poi nel corso della puntata. Ve lo ricordo, siamo molto interessati, e mi rivolgo ai genitori all'ascolto, dei vostri fattacci personali nella crescita rock dei vostri marmocchi. E questo SMS recita, vediamo un po', ciao Rock FM, mio figlio un anno e mezzo per addormentarsi pretende il Radiohead e i Cure. Ne vado troppo fiero, gli mando un bacione e anche ai miei due cani, Panino e Minu. Perdonami amico, ma voglio farti notare che hai scritto i nomi dei due cani e non di tuo figlio. Però non l'abbiamo salutato lo stesso. Sarà un duro lunedì, ma lo affronteremo insieme amici. E allora lo affronteremo a testa alta. Avete bisogno di una spintarella? Avete bisogno di un po' di buon rock and roll che riscaldi il vostro cranio ancora fermo, ancora lì che cerca di macinare? Beh, proviamoci con questa. Oh, well, everybody's heard about the bird. Yeah. Diventa una figata.